Il signor Wilson, ottimo uomo ma timido e troppo riguardoso, passeggiava in su e in giù per la camera dando segni di interno turbamento e diviso tra la brama di essere utile a Giorgio e una certa nozione confusa del dovere di far rispettare le leggi e l'ordine. Continuando a passeggiare innanzi e indietro, così esprimeva i pensieri che lo agitavano. Orbene, Giorgio, io m'avvedo che fuggite. Voi abbandonate il vostro legittimo padrone, non ne stupisco, ma ne sono dolente, sì, proprio dolente. Non abbiatevelo a male, Giorgio, ma è mio dovere di dirvelo. Di che siete dolente, signore? Domandò Giorgio con pacatezza. Di che? Di vedervi, per così dire, fare opposizione alle leggi della vostra patria. Della mia patria? Disse Giorgio con viva, amara enfasi. Quale patria ho io fuorché la tomba? Volesse Dio che vi fossi già coricato. No, Giorgio, non si tratta di questo. Il parlare in tal modo è da malvagio, è antievangelico. Giorgio, voi avete, è vero, un padrone duro, è innegabile che egli si sia comportato con voi in maniera reprensibile. Io non posso pretendere di scusarlo, ma voi sapete che l'angelo ordinò ad Agar di tornarsene alla sua padrona e di starle soggetta e che l'apostolo rimandò Onesimo al suo padrone. Non mi citate esempi della Bibbia in questo senso, signor Wilson, disse Giorgio con occhi scintillanti. Io ve ne prego, perché mia moglie è cristiana e io pure voglio essere cristiano se posso. Ma col farmi citazioni bibliche, nelle circostanze in cui mi trovo, non riuscireste ad altro che ad allontanarmene per sempre. Ne chiamo a testimone l'onnipotente Iddio. Eccomi belle pronto a comparirgli dinanzi e a chiedergli se ho fatto male o bene a procacciarmi la libertà. Questi sentimenti sono molto naturali, Giorgio, disse l'uomo da bene soffiandosi il naso. Sì, molto naturali, ma è mio dovere di non incoraggiarli in voi. Sì, figlio mio, ne sono ora dolente per voi. La condizione vostra era certamente triste, anzi, tristissima, però, dice l'Apostolo, ciascun rimanga nello stato in cui è posto. E noi tutti dobbiamo assoggettarci ai disegni della provvidenza, Giorgio. Non lo comprendete voi? Giorgio stava ritto dinanzi a lui, col capo leggermente rovesciato all'indietro, le braccia conserte sul largo petto e le labbra contratte da un amaro sorriso. Io vi domando, signor Wilson, se gli indiani fossero venuti a strapparvi dalle braccia di vostra moglie e dei vostri figli e volessero farvi spendere tutta la vostra vita a coltivare i loro campi, credereste voi esser vostro dovere restare nella condizione a cui sareste tratto in quella guisa? Io piuttosto mi immagino che il primo cavallo errante in cui vi imbatteste vi parrebbe una sufficiente indicazione delle vie della provvidenza, non è vero? Il piccolo e vecchio gentleman fece tanto d'occhi per considerar bene l'argomento sotto questo nuovo aspetto, ma per quanto egli non fosse un gran ragionatore, aveva il buon senso che non tutti i logici hanno, quello di non dir nulla quando non c'è più nulla da dire. E perciò, mentre stava diligentemente voltando e rivoltando tra le mani l'ombrello e ne spianava e lisciava tutte le pieghe, si contentò di proseguire nelle sue esortazioni in un modo generico. Ah, sentite, Giorgio, voi sapete che io vi fui sempre amico. Tutto quello che vi ho detto è per bene vostro. Ora, io credo che fuggendo vi esponiate a gravi rischi. Se la fuga non vi riesce, se siete raggiunto, la vostra sorte sarà più lacrimevole che per l'innanzi. Voi sarete schernito e mezzo morto dalle battiture e poi vi faranno discendere il fiume. Signor Wilson, so bene tutto questo, rispose Giorgio. Corro un gran rischio, ma. E aprendosi un po' l'abito sul petto, lasciò vedere due pistole e un pugnale. Ecco, disse. Io sono preparato a riceverli, non andrò per certo nel sud, no. Ad ogni evento saprò procurarmi almeno 6 piedi di terra libera, la sola proprietà alla quale io possa mai pretendere nel Kentucky. Oh, Giorgio, lo stato dell'animo vostro è tremendo. Questa è una risoluzione disperata. Io ne soffro più che non crediate. Come potete calpestar così le leggi della vostra patria? Ah, eccoci da capo con questa mia patria. Signor Wilson, voi avete una patria, ma io e tutti gli infelici che al pari di me sono nati da madre schiava, quale patria abbiamo? Quali sono le leggi che stanno a favor nostro? Noi non le facciamo, non le ratifichiamo, nulla abbiamo da fare con esse. Le vostre leggi ci opprimono, ci schiacciano e nulla a null'altro sono buone per noi. Non ho forse udito i vostri discorsi del 4 luglio, anniversario della vostra indipendenza? Non ci venivate dicendo ogni anno che il governo trae il suo giusto potere dal consenso dei governati? Credete che noi siamo incapaci di pensare, noi che ascoltiamo tali cose? Credete che non possiamo fare il confronto tra i vostri discorsi e i vostri atti per dedurne le conseguenze? L'intelletto del signor Wilson era uno di quelli che possono veramente essere paragonati a una palla di cotone, molle, arrendevole, di idee per troppa bonarietà sconnesse e confuse. Egli commiserava di tutto cuore la sorte del giovane e aveva un'idea vaga e oscura dei sentimenti che animavano lo schiavo ribelle, ma credeva che fosse dover suo di ricondurlo sulla retta via. Giorgio mio, debbo dirvi che fareste meglio a bandir dalla vostra mente tali idee, esse sono molto pericolose e funeste in una condizione come la vostra. Sì, davvero. Il signor Wilson sedette all'angolo del tavolino e si pose a morsicchiare in modo convulso il pomo del suo ombrello. Dite un po', signor Wilson, riprese a dire Giorgio, accostandosi e sedendo con piglio risoluto di faccia a lui. Guardatemi bene. Non vi sembra che io sia in tutto un uomo simile a voi? Guardate il mio viso, le mie mani, tutto il mio corpo. E il giovane si drizzò alteramente sulla vita. Non sono un uomo uguale ad ogni altro? Ascoltate, signor Wilson, ciò che posso narrarvi. Io avevo un padre, uno dei vostri gentleman del Kentucky. Non si degnò di provvedere a che dopo la sua morte io non fossi venduto coi suoi cani e coi suoi cavalli a pro dei suoi eredi. Io vidi mia madre posta all'incanto coi suoi 7 figli, essi furono venduti sotto i suoi occhi ad uno, a vari padroni. Io ero il più giovane. Ella si prostrò dinanzi a un vecchio trafficante e lo supplicò di comperarla con me affinché le restasse almeno uno dei suoi figli. Quegli la cacciò indietro dandole un calcio. Io vidi quell'atto nefando e intesi i lamenti e le grida di lei per l'ultima volta mentre mi legavano al collo del cavallo che doveva trasportarmi a casa del padrone. E poi? Il mio padrone trafficò di nuovo con un altro mercante, comprò la prima delle mie sorelle. Era una devota e buona giovinetta appartenente alla chiesa degli Anabattisti e non meno bella che la mia povera madre. Aveva ricevuto un'educazione eccellente e acquistato una gran gentilezza di modi. Fui dapprima beato per tale acquisto del mio padrone. Avevo almeno presso di me una persona per amarmi. Ma presto ebbi cagione di dolermene amaramente. Un giorno intesi, appostandomi all'uscio, le frustate che davano mia sorella, a ciascuna delle quali mi pareva che cadesse a nudo sopra il mio cuore, e nulla io potevo fare per lei. La meschinella era punita, signore, perché voleva menare la vita onesta e da cristiana, una vita che le vostre leggi non consentono a una schiava. E finalmente io la vidi incatenata con una mandria di negri che un mercante conduceva alla New Orleans per essere venduti, e da quel momento nulla più ne seppi. Orbene, io andavo crescendo per lunghi anni e anni senza padre né madre, senza sorelle, senza che anima viva mi trattasse meglio di un cane, null'altro per me che la frusta, gli improperi e la fame. Sì, patii la fame, signore, tanto che mi sarei stimato felice di raccogliere le ossa gettate ai loro cani e non di meno, benché io fossi ancora fanciullo, non già nelle mie lunghe notti insonni, la fame e la frusta erano quelle che mi facevano piangere. Ah no, io piangevo mia madre, le mie sorelle. Io piangevo perché non avevo sulla terra un cuore che mi amasse. Non seppi mai che cosa fosse pace e diletto. Mai una parola benigna mi era stata rivolta fino al giorno in cui venni a lavorare nella vostra fabbrica, signor Wilson. Voi foste buono con me, voi mi incoraggiaste a imparare a leggere, scrivere, tentar d'uscire dal mio avvilimento. Dio sa quanta gratitudine ve ne serbo. In quel tempo, signore, io conobbi colei che presi per moglie, voi la vedeste e sapete quanto sia bella. Da che io m'avvidi del suo amore, da che l'ebbi sposata, ella mi rese felice più di quanto io potessi immaginare, perché ella non è meno virtuosa che bella. Ma che giova! Il mio padrone venne colà, mi strappò dal mio lavoro, dai miei amici, da tutto ciò che amo e mi ricacciò nella polvere. E perché? Per la ragione, egli disse, che io mi ero dimenticato chi fossi e per farmi bene intendere che io ero soltanto un povero negro. Infine, come se ciò non bastasse, gli pose un muro tra me e mia moglie, ordinandomi di non pensare più a lei e di vivere con un'altra. E tutto ciò le vostre leggi danno il potere di farlo, a dispetto di Dio e della coscienza. Ah, come vedete, signor Wilson, non venne uno di questi atti infami che spezzarono il cuore di mia madre, delle mie sorelle, di mia moglie ed il mio, che non abbia la sanzione delle vostre leggi. E voi date a ciò il nome di leggi della mia patria? Signore, io non ho patria, nel modo stesso che non ho padre, ma sto per averne una. Niente di più io chiedo al vostro paese che di potermene allontanare, e quando avrò toccato il suolo del Canada, le cui leggi mi tuteleranno, quella sarà la mia patria e alle sue leggi io obbedirò. Ma nessuno tenti fermarmi o badi a sé, perché io sono disperato. Per la mia libertà darò tutto il mio sangue fino all'ultima stilla. Voi dite che altrettanto fecero i padri vostri. Bene, se ciò fu un diritto per loro, è un diritto anche per me. Questo discorso, fatto da Giorgio, parte sedendo presso la tavola e parte passeggiando in su e in giù a gran passi per la camera, discorso unito a lacrime, a un fiero balenar di sguardi, a gesti di disperazione, vinse il cuore del buon vecchio, il quale, toltosi il fazzoletto di tasca, se ne fregava con tutta forza il viso. Indi proruppe: «Ah, li colga tutti il malanno! Non ve l'ho sempre detto, oh turpi infernali vecchi! Per poco, meschino me, non ho bestemmiato! Ebbene, avanti, Giorgio, avanti! Ma prudenza, figliuolo mio, non uccidete alcuno, Giorgio, eccetto che... Però... meglio fareste, io penso, a non tirare. Insomma, io non vorrei prender la mira contro alcuno, mi capite? Dov'è vostra moglie?» soggiunse alzandosi in piedi e ponendosi a passeggiare per la camera. «È partita, signor Wilson. Partita col figlioletto in braccio. Dio solo sa dove ella sia rifugiata. Ora segue la stella polare e quando ci ritroveremo, o se più ci ritroveremo sulla terra, nessuno può dirlo.» «Ed è possibile, pare da non credersi. Una sì eccellente famiglia. Ah, oh, anche le buone famiglie contraggono debiti e le leggi del nostro paese consentono loro di strappare i figli dal seno della madre per pagare i debiti del padrone», disse Giorgio amaramente. «Vero, purtroppo», disse l'onesto vecchio frugandosi nelle tasche. «Forse io non opero secondo ragione, ma», soggiunse a un tratto, «io non voglio operare come la ragione mi detta. Prendete, Giorgio». E traendo vari biglietti di banca dal suo portafogli, li offerse al giovane. «Oh, no, no, mio cortese buon signore», disse Giorgio. «Molto già faceste per me e ciò potrebbe mettervi in difficoltà gravi. Io ho denaro quanto basta, almeno lo spero, per giungere alla meta del mio viaggio». «No, Giorgio, non dovete rifiutare. Il denaro è sempre un grande aiuto e non ne avrete mai di troppo ove lo acquistiate onestamente. Prendetelo, accettatelo, figlio mio.» «Ebbene, sì, ma a condizione che io ve lo restituirò appena mi sia possibile», rispose Giorgio prendendo quei biglietti. «Ora, Giorgio, ditemi, quanto tempo intendete di viaggiare a questo modo? Non a lungo, spero. Il vostro tentativo riesce assai bene, ma è troppo audace. Il nero che avete con voi, chi è?» «Oh, un fedele compagno che fuggì al Canada più di un anno addietro. Quivi egli seppe che il suo padrone, montato in gran collera per la fuga di lui, fa crudelmente flagellare la sua povera madre, egli è tornato per consolarla e cercare in qualche modo di trarla via.» «E la cosa gli è riuscita?» «Non ancora. Egli è andato vagando intorno alla piantagione dove è sua madre, ma finora non ha potuto cogliere il destro. Intanto mi accompagna fino all'Ohio per condurmi presso alcuni amici che lo aiutarono nella fuga, poi tornerà vicino ad essa.» «C'è un gran pericolo, un grandissimo pericolo», disse il vecchio. Giorgio balzò in piedi e sorrise sdegnosamente. Il vecchio gentleman lo guardò fisso con una specie di maraviglia. «Giorgio», disse, «qualche cosa di singolare è succeduto in voi, mi sembrate un altro uomo.» È perché ora sono un uomo libero, rispose fieramente Giorgio. Certo, signore, non dirò mai più padrone a un altro uomo. Io sono libero. Badate bene, voi non siete al sicuro, potete essere ripreso. Se ciò avvenisse, signor Wilson, tutti gli uomini sono liberi e uguali nella tomba, disse Giorgio. Ma io resto attonito dalla vostra audacia, riprese a dire Wilson. Venire qua direttamente. Alla più prossima osteria. Tanta è l'audacia in me e tanta la prossimità dell'osteria che nessuno penserà a ciò. Cercheranno di me più lontano. Voi stesso, signor Wilson, non potevate credere che fossi io. Il padrone di Jim non dimora in questa contea ed egli non vi è conosciuto. Oltre ciò, è stato abbandonato il pensiero di ritrovarlo. Nessuno più lo cerca e nessuno ravviserà me secondo la descrizione data. Non è vero? E il marchio della vostra mano? Il mulatto si tolse il guanto e mostrò una cicatrice non ancora bene rimarginata. Questa è un'ultima prova della bontà del signor Harris, disse con cera beffarda. Sono 15 giorni da che egli saltò in mente di darmela, poiché diceva di essere persuaso che io avevo idea di fuggire alla prima occasione, e però ben cancellata, non è vero? Soggiunse nel rimettersi il guanto. In verità, il sangue mi si agghiaccia addosso quando penso ai pericoli che correte. Ah, oh, il mio mi è rimasto agghiacciato nelle vene abbastanza a lungo, signor Wilson. Ora è bollente, disse il mulatto, e dopo un istante di silenzio continuò. Mio buon signore, quando ho visto che mi avevate riconosciuto, ho creduto bene informarvi di tutto per timore che la vostra sorpresa fosse cagione di farmi scoprire. Io proseguirò il mio viaggio domattina all'alba e spero di addormentarmi domani sera con animo tranquillo e sicuro nello stato dell'Ohio. Viaggerò di giorno, smonterò alle migliori locande, mi porrò alla mensa comune coi signori del paese. Dio vi conservi dunque, signor Wilson. Se udite che son preso, potete avere la certezza che son morto. Giorgio, in piedi, porse la mano con un gesto da principe. Il buon vecchietto la strinse cordialmente e, dopo averlo ancora una volta esortato ad aver prudenza, prese l'ombrello e si allontanò, andando come a tentoni. Giorgio stette guardando in aria pensosa l'uscio che il signor Wilson aveva serrato. Parve che un pensiero gli venisse improvviso e, tosto lanciandosi dietro al vecchio, gli gridò: Signor Wilson, ancora una parola. Wilson rientrò. E Giorgio, chiuso come prima l'uscio, stette un momento con gli occhi bassi e con l'aspetto di un uomo irresoluto. Finalmente, alzando il capo con un subitaneo sforzo, signor Wilson, voi mi avete parlato da cristiano, io vorrei domandarvi un ultimo atto di carità cristiana. Ebbene, Giorgio, quello che voi mi avete detto è verissimo. Io mi espongo a un rischio tremendo. Non c'è anima viva sulla terra che si prenda cura di me se morissi. Soggiunse parlando con sforzo. Io sarò gettato fuori della via, sotterrato come un cane. Il giorno dopo nessuno vi penserà più, tranne la povera moglie mia, poveretta. Si rattristerà e si consumerà di dolore. Oh, se voleste, signor Wilson, impegnarvi a farle avere questo spillo. Ella me lo diede per un dono di Natale, povera Elisa. Fate che lo abbia e ditele che io l'amerò finché avrò vita. Lo farete? Me lo promettete? Domandò con accento supplichevole. Sì, per certo, povero figliuolo, disse il vecchio prendendo quel gioiello con mesta simpatia e con occhi pieni di lacrime. E ditele un'altra cosa, continuò Giorgio, che è l'ultima volontà mia, che la vada qualora le sia possibile sino al Canada. Nulla importa che sia eccellente la sua padrona, nulla che l'abbia amore a quella casa, non torni indietro, perché la schiavitù non può trarre seco che l'infelicità. Ditele che formi del nostro figliuolo un uomo libero, acciò che egli non debba soffrire quanto ho sofferto io finora. Le direte tutto questo, signor Wilson? Me lo promettete? Sì, le dirò tutto. Ma spero che voi non morrete. Fatevi animo, voi siete un brav'uomo. Confidate in Dio, Giorgio. Col più vivo del cuore io desidero che vi mettiate al sicuro, benché. Sì, lo bramo ardentemente. C'è un Dio nel quale io possa confidare? disse Giorgio con accento di sì amara disperazione che fermò le parole sul labbro del vecchio. Oh, io vidi cose in vita mia che mi fecero dubitare dell'esistenza di un Dio. Tuttavia, i bianchi non comprendono quale impressione facciano tali cose sull'animo nostro. V'è un Dio per voi, ma per noi non ve n'è alcuno. Non dite questo, figliuolo mio, esclamò il vecchio mentre i singhiozzi gli interrompevano quasi le parole. Non pensate in tal modo, vi è di certo. Le nubi e le tenebre lo circondano, ma la misericordia e la giustizia formano il sostegno del suo trono. Dio esiste, Giorgio, credetelo. Fidate in lui ed egli vi aiuterà, ne son certo, verrà giorno in cui si metterà ordine a tutte le cose, almeno nell'altra vita, se non in questa. La sincera pietà e benevolenza di quel semplice vecchietto diedero alle sue parole una tale impronta di autorità che Giorgio cessò di passeggiare disordinatamente per la camera e, fermandosi pensoso un istante, disse con placido rispetto: Vi ringrazio delle vostre parole, mio buon amico. Esse mi resteranno impresse nella memoria. Prima di proseguire con la lettura del prossimo capitolo della Capanna di Zio Tom come scuola delle donne, vorremmo ricordare la figura di Harriet Tubman, la schiava che fuggì e si liberò utilizzando la Underground Railroad e riuscendo a fuggire fino in Canada. Ma Harriet Tubman non si limitò a liberare se stessa, bensì tornò indietro negli Stati del Sud, dove ancora i suoi familiari erano tenuti in schiavitù, e dopo aver liberato tutti i suoi familiari, condusse per 10 anni successivi 19 spedizioni di salvataggio nel Sud, facendo scappare circa 300 schiavi e schiave, senza mai essere catturate, senza mai perdere un fuggiasco. Durante la guerra di successione, si schierò dalla parte degli abolizionisti e combatté, venendo nominata generale. La figura di questa importantissima antenata è costantemente presente, alla nostra memoria durante la lettura di questo meraviglioso romanzo e noi, ci sentiamo di onorarla una volta in più. E ora riprendiamo la lettura. Capitolo 12. Curiosi particolari di un commercio legale. Hayley e Tom proseguivano il loro cammino in carrozza, abbandonati ciascuno alle proprie riflessioni. Sarebbe veramente curioso il poter confrontare i pensieri dei due uomini seduti uno accanto all'altro. Si trovano a sedere nel posto medesimo, hanno gli stessi occhi, le stesse orecchie, tutto hanno uguale, eppure quanta differenza vi è nei pensieri che ingombrano la loro mente. Primo oggetto, per esempio, delle riflessioni di Hayley fu la dimensione di Tom, la sua larghezza, l'altezza e quanto ne potrebbe ritrarre se gli riuscisse di condurlo sano e vegeto fin sopra il mercato. Pensava al modo di comporre la sua mandria, al valore dei vari capi di merce, uomini, donne, fanciulli che ne facevano parte e altre simili particolarità dei suoi affari. Tornato col pensiero sopra se stesso, egli si compiaceva d'essere tanto umano perché, mentre quasi tutti i possessori di neri li incatenavano mani e piedi, egli a Tom aveva messo i ferri soltanto ai piedi, lasciandogli le mani libere fino a che si sarebbe comportato bene. Poi sospirò pensando all'ingratitudine del cuore umano, poiché aveva ragione di dubitare se Tom apprezzerebbe quei favori. Più e più volte era rimasto gabbato dai neri con cui si era dimostrato indulgente. Sì, che non era poca meraviglia che egli conservasse per loro una sì segnalata bontà. Tom, invece, ripensava ad alcune parole di un vecchio libro poco cercato dal mondo, le quali senza posa gli brulicavano nel capo ed erano queste. Noi quaggiù non abbiamo una dimora permanente, ma cerchiamo quella che deve venire. E Dio non si vergogna ad essere chiamato loro Dio e ha preparato loro una città. Queste parole di un sacro volume scritto principalmente da uomini senza dottrina esercitarono in ogni tempo un certo maraviglioso potere sulla mente dei poveri e dei semplici come Tom. Esse sommuovono l'animo fin dal fondo e svegliano, come il suono di una tromba, il coraggio e l'entusiasmo laddove erano prima l'avvilimento e la disperazione. Haley cavò di tasca vari giornali e incominciò a scorrere attentamente con lo sguardo gli annunzi. Egli non era un lettore di gran vaglia e compitava con molta fatica, dopo aver studiato le frasi che leggeva a mezza voce. In tal guisa, appunto, egli lesse il paragrafo che segue: Vendita giudiziaria di neri. In conformità degli ordini del Tribunale, saranno venduti il martedì 20 febbraio dinanzi alla porta della Corte di Giustizia, nel villaggio di Washington, Kentucky, i neri qui presso indicati: Agar di anni 60, John di 30, Ben di 21, Saul di 55 e Alberto di 14. Saranno venduti a beneficio dei creditori e degli eredi di Jesse Blatchford. Gli esecutori testamentari Samuele Morris e Tommaso Flint. Bisognerà che io studi un po' quest'affare, disse a Tom in mancanza d'altro uditore. Vorrei mettere insieme alcuni capi di prima qualità per unirli a te, così avrai una gradevole compagnia. Prima di tutto dobbiamo andare a Washington e quivi ti porrò nelle carceri fino a che io abbia dato sesto ai miei affari. Tom ricevette umilmente questa spiacevole notizia. Solo considerò fra se stesso quanti di quegli infelici avevano una moglie e figli e se nell'abbandonarli soffrirebbero al pari di lui. Bisogna pur dire che il franco e ingenuo modo con cui gli fu annunziato che sarebbe posto in carcere non produsse una molto grata impressione sul pover'uomo che si era sempre pregiato di un onesto e savio genere di vita. Sì, dobbiamo confessarlo. Tom erasi piuttosto insuperbito della propria onestà perché non aveva altro al mondo di cui andare fiero. Se avesse fatto parte di una delle più alte classi della società, non sarebbe stato certamente ridotto ad una così misera condizione. Intanto il giorno declinava e la notte trovò Haley e Tom stabiliti comodamente a Washington, l'uno in un'osteria e l'altro in un carcere. Alle 11 antimeridiane circa del giorno seguente, una fitta calca di popolo ondeggiava dinanzi all'ingresso della Corte di Giustizia, fumando, masticando tabacco, bestemmiando e conversando ciascuno secondo il suo gusto particolare e la propria indole, e tutti aspettando l'ora in cui si doveva procedere al pubblico incanto. Gli schiavi, esposti alla vendita, formavano un gruppo a parte e discorrevano sottovoce fra loro. La donna, che era notata negli annunzi col nome di Agar, offriva in sé per le fattezze e per la conformazione, il vero tipo africano poteva avere sui 60 anni, ma le infermità e le gravi fatiche l'avevano fatta invecchiare prima del tempo, era quasi cieca e andava tutta curva e storpia per dolori reumatici. Accanto ad essa vedevasi suo figlio Alberto, vago giovinetto di 14 anni, che solo le era rimasto di una numerosa famiglia i cui membri erano stati venduti insieme per il mercato del paese meridionale. La madre lo teneva stretto nelle sue braccia tremanti e guardava con trepidazione tutti coloro che le si avvicinavano per osservarlo. Non temete, zia Agar, le disse il più vecchio di quegli uomini. Ho parlato in vostro favore con padron Tommaso, egli vi metterà in vendita ambedue uniti. Non bisogna dire che io non sia più atta ad alcun servigio, disse la vecchia alzando le tremule mani. Io posso ancora far da cucina, spazzare, lavare i piatti. Non sarà poi tanto inutile il comprarmi, benché io sia offerta a prezzo minimo. Avvertiteli, persuadeteli di ciò, soggiunse ella con voce supplichevole. Haley si era schiuso una via in mezzo a quei gruppi. Si accostò a uno dei neri, gli fece aprire la bocca, gli guardò dentro, gli tasteggiò la mascella, gli ordinò di stare ritto con la testa alta, poi di incurvarsi e, dopo avergli fatto eseguire parecchie evoluzioni per porre a prova la vigoria dei suoi muscoli, passò a esaminare un altro. Vedendo poi il giovinetto che si trovava per ultimo, gli palpò le braccia, osservò le sue dita e lo fece saltare per giudicare della sua agilità. Non vorrete mica comprarlo senza me? Esclamò la vecchia con appassionata veemenza. Noi formiamo un solo capo di vendita. Io sono ancora robusta, padrone, posso fare ancora molti lavori, credetemi. E la piantagione? Ci credo poco, rispose Haley con un sogghigno sprezzante. E soddisfatto del suo esame, si ritirò da un lato dove stette fermo con le mani nelle tasche, col sigaro in bocca, col cappello inclinato sull'orecchio sinistro, pronto per l'azione. Che ve ne pare? Chiese un uomo il quale aveva seguito con gli occhi l'esame di Haley come per formulare la propria opinione su quella di lui. Ebbene, penso. disse Hailey, penso di offrire per i due giovani e per il ragazzo. Vogliono vendere il ragazzo e la vecchia insieme. Ah, ciò m'alletta poco. Colei non è più che un sacco di ossa logore, né ha il valore del sale che mangerebbe. Dunque non la prendete? E solo pensarvi sarebbe una pazzia. Ma non vedete che è mezza cieca, rattrappita dai dolori reumatici, quasi ebete per giunta? Che me ne farei? Beh, taluni comprano queste vecchie, vi trovano il loro tornaconto più che non ci si crederebbe, disse l'uomo con aria seria e riflessiva. Non sarò io quello, rispose Hailey. Non prenderei quel carcame neanche in dono. L'ho veduta e basta. Oh, è pur triste cosa il non comprarla col suo figliuolo. Ella non potrà sopravvivere senza lui. Pensate che la pongono a un infimo prezzo. La compri chi ha denaro da gettare. Quanto a me, io voglio comprare il giovinetto per una piantagione, ma non desidero punto di impacciarmi con quella vecchiaccia, neppure se me la lasciassero per niente. Ma costei si darà la disperazione. È cosa che non mi interessa, rispose il mercante. Qui il colloquio fu interrotto dal movimento che si fece intorno ad essi. Il banditore, omiciattolo che si dava un gran sussiego, s'apriva il passo fra il popolo accalcato. La vecchia respirò con più affanno e si attaccò istintivamente al suo figlio. Alberto, disse ella, tienti ben accosto a me, ci porranno insieme. Oh mamma, ho paura di no, disse il giovinetto. Bisogna che sia così, figlio mio, altrimenti io ne morrei, disse la vecchia con impeto di passione. La voce stentorea del banditore annunciò che stava per eseguirsi la vendita di parecchi schiavi, allora si fece largo e l'incanto cominciò. I giovani neri furono aggiudicati a prezzi elevatissimi, il che denotava come fossero vive le ricerche sul mercato. Due di essi toccarono ad Haley. Ora a te, garzoncello, disse il banditore, toccando il figlio della vecchia nera col suo martello. Sta su e mostra la tua agilità. Poneteci insieme, padrone, ve ne supplico, implorò la vecchia, aggrappandosi a suo figlio. Indietro, disse il banditore, facendole ritrarre le mani. Verrà anche la tua volta. Su, su, negrotto, avanti, salta! E sospinse il giovinetto verso il palco, mentre soffocati singhiozzi rispondevano a quelle parole. Il giovane si soffermò e guardò indietro, ma non gli fu dato agio di fermarsi, perciò, asciugandosi col dorso della mano le lacrime che gli cadevano dai grandi occhi lucenti, salì sul palco. La sua bella conformazione, le sue membra svelte e robuste, il suo volto leggiadro provocarono una concorrenza immediata, una dozzina di offerte giunsero nel tempo stesso all'orecchio del banditore. Ansioso, atterrito, il fanciullo guardava a vicenda coloro che se ne contendevano il possesso fino all'istante in cui il martello cadde giù. Haley era il compratore. Egli fu spinto verso il suo nuovo padrone, ma soffermandosi un poco rivolse il viso dalla parte dove era la sua vecchia madre, la quale, tremando in ogni fibra e protendendo le braccia, gridava: «Compratemi con lui, padrone, per amor del buon Dio, compratemi! Io morrò se non lo fate!» Ah, tu morresti più presto se io ti comprassi, la cosa è sicura, rispose Hailey e voltò le spalle. La vendita della povera vecchia fu fatta. L'uomo che un momento prima erasi rivolto a Hailey e che pareva sentire qualche compassione, la comprò per un'inezia. Gli spettatori cominciarono a disperdersi. Le vittime della vendita, le quali per molti anni avevano convissuto sotto il medesimo tetto, si raccolsero attorno alla vecchia madre, la cui disperazione lacerava il cuore a vederla. Non si poteva almeno lasciarmene uno, uno. Il padrone mi aveva sempre detto che uno me ne resterebbe, sì, me ne aveva assicurata, ripeteva di continuo con voce straziante. Fidate in Dio, Agar, disse tristemente il più attempato dei neri. E qual bene me ne verrà? Rispose ella singhiozzando dirottamente. Mamma, mamma, non piangete così, le diceva il giovinetto. Dicono che vi sia toccato un buon padrone. A che importa a me, Alberto? Tu eri l'ultimo mio figlio. Ah, signore Dio, come vivrò lontana da lui! Animo, via, si conduca altrove questa vecchia, disse Hailey duramente. L'infastidirci a questo modo non giova a nulla. Alcuni degli astanti, parte con la persuasione, parte con la forza, strapparono la povera donna da quei disperati abbracciamenti e cercarono di consolarla mentre la conducevano alla carretta del suo nuovo padrone. Andiamo, disse Hailey, e e raccolte le sue tre compre, pose loro ai polsi le manette, attaccò a ciascuna di esse una lunga catena e si cacciò innanzi quel gregge umano fino alle carceri. Pochi giorni dopo, Haley si imbarcava coi suoi acquisti a bordo di un piroscafo dell'Ohio.